esperienza. Il posto è bellissimo. Grazie a tutti, anche voi presenti, perché l'alcol non lo fanno i gruppi. Sarà un po' banale, dice, che succede? Che potenza! Ciao Tommaso! Sei sempre con noi, so che ci guardi! So che ci ovunque tu sia! Sei sempre con noi! Per anni, da sempre, la lotta per l'autodeterminazione del popolo sardo e purtroppo dopo un bruttissimo periodo di cancro non ce l'ha fatta. Noi ci sentiamo di dire che comunque grazie a ella lotterà sempre a fianco a noi e porteremo avanti questi ideali di separatismo, indipendentismo, dallo sfruttamento italico, americano e così via dicendo. Che siamo la testa, l'italismo e via dicendo. Italia di merda. Thank you. grazie. Dal demo. Politica, non musica, rabbia, non musica. Schifo, non musica. È uno spago per la cosa. Tutto suonato e si va avanti. I'm going educare la repressione per tutto quello che hanno fatto per noi, per quello che stanno facendo, però non ho parole. Quindi vi mando un abbraccio. E vi passi per tutte le altre date qui, e vi passi. Questa è la prima volta che veniamo in Italia, scusate di come separatismo. Volevo fare un piccolissimo discorso che fosse un mio amico. Lo volevo dedicare a Giulia. Lei viene da Sassari. È venuta a dirci niente, è una sorpresa bellissima, ci siamo trovati qua da nulla, va benissimo così, grazie. Il discorso che mi ha detto amico di Cagliari, molto semplice, che mi ha molto colpito anni fa, quando lo fece un live, perché quindi diciamo che gliel'ho rubato, è che in un ambiente come quello del rock bisogna entrare con una cerchia ben precisa di amici e riuscirne con una ancora più grande. Mi raccomando, non fate sì che sia solo un momento di sfogo, di balli, che ovviamente è un momento che ci sta di brutto, però guardatevi attorno, parlate fra di voi, arricchitevi a vicenda. Andiamo avanti, continuiamo un po' il movimento. Grazie veramente. Ancora non è stato musica, anche discorsi, quindi scusate che mi annoio un po'. Questo è istante. Oggi è una bella stazione, sono molti gruppi. Non so alla fine la scaletta come sia, ma non lo diciamo perché si devono rimanere qui fino alla fine. Gli aborti mi sono arrivati, no? No? Dopo picchio Zaccaria, ha deciso. X, la diciamo a Zaccaria, a cui voglio un gran bene, dopo lo spartuccio, viva l'amore degli uomini! bene. Siamo già divertiti. Facciamo la parte. Grazie. Dai, poi facciamo un'altra del Colonna Infame. Perché... perché i pezzi vecchi non ce li ricordiamo. Cioè, te li ricordi? Pezzi vecchi? No. Io no. Poi dobbiamo fare il Colonna perché ci hanno cambiato la vita. Va bene? Va bene. Grazie. Allora, qualcuno, dai. Grazie. Mi fa un bel caso. Come va? Bene, sì, scusa.